visti da fuori. Dove andiamo oggi per discutere della nostra credibilità internazionale? Naturalmente, devo dire che questi incontri con i corrispondenti stranieri sono abbastanza confortanti, perché mentre noi amiamo dipingerci come un paese tutto ombra, tutto zone buie, in realtà ci arrivano anche dei feedback molto positivi da voi. Oggi andiamo a parlare con qualcuno che lavora in un'agenzia di stampa tra le più note e vaste al mondo. Ecco, io non sapevo che l'agenzia Reuters fosse in realtà stata fondata da un tedesco, e infatti cominciò con i piccioni viaggiatori. Paul Julius Reuter trasmetteva le notizie proprio così nel giugno del 1800 più o meno, con tra Aquisgrana e Bruxelles, utilizzando i piccioni viaggiatori. Oggi abbiamo ben altri mezzi, ma siamo sempre qui con Reuters, che tra l'altro ha delle policy aziendali molto interessanti, ma di questo parleremo dopo. Prima ve lo presento. Hi James. Ciao, buongiorno. Buongiorno. James McKenzie è il corrispondente in Italia per Reuters. Innanzitutto, James, perché sei qua? Da quanto ti trovi qua? Hai scelto questa destinazione o ti hanno inviato qui? Beh, io sono qua da 2010. Ho scelto di venire qua. Infatti è un posto molto... molto popolare a Reuters, ma per tanti giornalisti stranieri, perché è un paese molto speciale, un paese molto interessante dove sempre succede qualcosa, dove ci sono sempre storie molto interessanti da raccontare. Dunque sì, è un posto molto, molto interessante. Molto ambito tra i colleghi giornalisti, ho capito. No, assolutamente sì. E te lo sei aggiudicato tu, prima dove eri? Io prima facevo il corrispondente a Parigi, prima di venire qua. Prima del 2010, ti manca la capitale francese? Beh, sì, no, naturalmente è un posto molto speciale, Parigi anche sì, però io mi trovo molto bene qua e sono contentissimo di essere qua a Roma, sì. Come hai fatto a imparare così bene l'italiano in 4 anni? Ah, gentile, grazie. Infatti no, parlava già un po' prima di venire, dunque spero di... sì, no, così, parlando. Lo parlavi prima di venire perché tra l'altro sei molto appassionato della storia italiana. Sì, infatti ho studiato la storia italiana, la storia medievale italiana prima di venire, quando ero studente all'università. Quindi conosci la storia italiana probabilmente meglio di tanti di noi. Cosa hai scritto recentemente? Ti schernisci giustamente, ma a parte articoli ovviamente sul PIL e recessione, ne abbiamo letti tanti anche tra ieri e oggi, recentemente cosa hai scritto dall'Italia? Ma... recentemente abbiamo provato di raccontare un po' quello che succede col governo, naturalmente, perché questo è molto importante non soltanto per l'Italia, ma anche per gli altri paesi, per i paesi europei. Dunque proviamo di raccontare quello che succede nel governo, nell'economia. Il governo Renzi, che attira molto interesse fuori dall'Italia, è una vicenda molto appassionante. Questo è stato, la politica del governo Renzi è stato veramente al centro del nostro lavoro in questi mesi, ovviamente. Inevitabilmente. E sì. Poi abbiamo visto anche dei pezzi di costume lanciati da Reuters. Sì, sì, proviamo di fare non soltanto la politica in senso stretto, l'economia in senso stretta così, ma anche proviamo di raccontare altre storie, sì, un po' più insolite, diciamo. No, mi ricordo una storia che abbiamo fatto qualche tempo fa su un dato un po' strano, un po' quotidiano, nel senso che il numero è molto elevato degli italiani che mangiano pranzo a casa, che secondo Istat erano i tre quarti degli italiani che mangiano pranzo a casa, che è un dato molto... che mi ha molto colpito, che dava un po' il ritratto di un paese, tanti vivono nei piccoli paesi, lavorano per piccole imprese, così. Era un po' un un approccio, un modo per raccontare questa storia, per fare questo ritratto di un certo una certa realtà italiana. E qui ritorna ancora una volta l'occhio straniero che riesce a vedere, a leggere, a raccontare con dati l'Italia, dati che a volte non trovano risalto invece sulla stampa nazionale, ed è il destino di tutti i corrispondenti in ogni parte del mondo, per questo vi mandano in giro. Avete scritto dell'Italia e del fatto che gli italiani per 3 su 4, almeno secondo questi dati Istat, forse più nei piccoli centri, mangino a pranzo a casa. E per quel che riguarda invece la tua esperienza personale, James, qual è l'aspetto, il cambio di vita più importante che hai fatto passando da Parigi, prima da Londra a Parigi, e quindi eri già abituato a una sede estera, e poi da Parigi a Roma? Sì, ma ogni volta che uno cambia paese così bisogna acclimatarsi, trovare nuovi amici, nuovi modi di vivere così. È stato così a Roma, anche Roma non è una città molto, è una città diciamo complicata, che è una storia molto particolare, con modi di vita molto particolari così. A me ha aiutato molto il fatto di giocare a calcio ogni settimana con un gruppo di ragazzi della mia età. C'è un modo molto interessante di imparare tante cose sull'Italia che normalmente sono cose piccole che sarebbero abbastanza difficili da imparare altrimenti. Cioè tu in questi piccoli riti, per esempio il gioco del calcio tra amici, chi gioca con te, colleghi, amici, con chi, vicini di casa, chi sono? No, sono amici, diciamo amici di amici, che io avevo questi amici prima di venire qua e così ho conosciuto altri amici di loro, no? Sono gente normale che lavora, professionisti. E cosa hai imparato dal giocare a calcio con loro? Ma è difficile dire esattamente, è una sorta di si impara tante cose sulla cultura di essere insieme, di litigare, di riconciliarsi, di negoziare, di pensare un gioco di squadra così, tante di queste piccole regole di vita che sono molto importanti, ho l'impressione, in Italia, queste regole non scritte sul comportamento, sul modo di essere, di stare insieme. Così, sì, c'è un codice non scritto che forse è più importante del seppur corposo codice di regole e leggi, sì, dell'Italia. E questa è un'altra delle ricchezze, se vogliamo, delle lingue che gli stranieri devono imparare al di là dell'italiano. Senti, una domanda di rito obbligatoria: se tu potessi esportare qualcosa a Londra, visto che ci vanno tantissimi, è ormai la capitale di un fenomeno tutto italiano che è la fuga dei cervelli, voi siete il centro che esercita maggiore attrazione sui nostri giovani neolaureati per vari motivi, ovviamente di competitività, mancanza di burocrazia e tanto altro. Se tu dovessi portare qualcosa da qua, cosa esporteresti? Ma difficile dire. Io direi forse i libri come oggetti fisici in Italia, sì, mi piacciono molto. Cioè la cura delle edizioni, le copertine? Sì, no, tutto, la cultura del, specialmente queste vecchie piccole case di editrice che hanno, sì, no, che producono libri molto belli. Bello proprio come oggetto, libri, perché di libri, sì, ovviamente, sì, sì, ce ne sono, sì, tanti, anche, se ne consumano, sì, tanti anche, sì, sì, e forse di più dall'altra parte della manica, però questo è molto l'hanno notato perfino dei coreani in visita in Italia, me lo facevano notare. È molto bella, l'editoria italiana è considerata produttrice di oggetti, al di là dei contenuti e delle scelte di traduzioni, molto che sono belli. Molto il contenuto anche molto interessante, molto importante così, no? Ma parlo come se tu mi chiedi cosa prenderei come oggetto, così, come cosa, sarebbe un libro. No, poteva essere anche qualcosa d'astratto, basta che non fosse il cibo, perché lo sappiamo. Lo sappiamo che esportereste il cibo, no, senza offesa. Ci sono tante insomma, cose bellissime in Italia, che sarebbe difficile fare una scelta. James McKenzie, corrispondente da Roma per Reuters, grazie, naturalmente ci sentiremo in futuro.